Parliamo ora dell'ottava edizione del Festival Testimonianze e Ricercazioni a Genova dal 5 aprile al 7 maggio. Ne parliamo con Clemente Tafuri. Ci sei, Clemente? Sì, ci sono. Buongiorno a tutti. Allora, benvenuto a Radio Onda Rossa, al Radioteatro. Raccontaci un po', intanto, per chi non lo conoscesse, come è nato, quali sono le sue caratteristiche. Il Festival Testimonianze e Ricercazioni nasce 8 anni fa, questa è appunto la tradizione, ed è un festival che raccoglie ovviamente spettacoli, artisti, residenze artistiche e poi una parte piuttosto ampia dedicata agli studi, ai convegni, studi che mettono in relazione il teatro con la filosofia, il pensiero, l'arte in senso più esteso. E poi ovviamente ritornando proprio alla sala, quindi agli spettacoli, alle performance. E questa è un po' una traccia che noi abbiamo seguito fin dalla nascita di Teatro Acropolis e dalla nascita di questo festival. Sì. Senti, si occupa un po' tutto di un po' tutto il panorama nazionale. Sì, decisamente. Abbiamo compagnie che vengono da tutta Italia, dall'estero, insomma, sì, abbiamo e poi anche questa parte convegnistica che quest'anno è particolarmente importante e che raccoglie gli studiosi e critici un po' di tutta Italia. Allora, ecco, partiamo proprio dalla parte dei convegni. Ce ne parli un po'? Allora, quest'anno abbiamo 2 convegni molto importanti, che sono quello dedicato ai 100 anni dalla nascita di Giorgio Colli, il filosofo, a cui parteciperanno tra gli altri Massimo Cacciari, Carlo Sini e Giuliano Campioni, e sarà un modo per Marco Martinelli anche del Teatro delle Albe, e sarà un po' un modo per ricordare la figura di questo filosofo, di questo pensatore, di questo intellettuale che, oltre ad aver lavorato in ambito strettamente specifico sulla filosofia, ha però ispirato intere generazioni di artisti, e quindi insomma tutte le sue riflessioni intorno alla sapienza greca, la nascita della tragedia, lo stesso Nietzsche, sono stati materiali di grande ispirazione per gruppi e artisti. L'altro convegno è invece più legato alla scena teatrale, si chiama Ivrea 50, è stato curato da Marco De Marinis dell'Università di Bologna è un modo per ricordare il convegno di Ivrea del 67, dove intellettuali, critici, eccetera, hanno un po' fatto il punto della situazione sullo stato dell'arte teatrale italiana in quel periodo, e quindi ricordando quell'anno ci si propone di ritornare a riflettere sullo stato dell'arte invece di adesso, e quindi sono stati chiamati decine di critici, di artisti, per metterci intorno a dei tavoli tematici e discutere sulle cose che si fanno o che si dovrebbero fare. Arriviamo alla parte degli spettacoli. Cosa proponete quest'anno? Quest'anno abbiamo, come al solito, abbiamo una commistione piuttosto trasversale tra teatro fisico, danza e teatro di prosa, che è un po' una caratteristica di Testimonianze e Ricercazioni. Abbiamo quindi diversi giovani coreografi che portano il loro lavoro a Teatro Acropolis, Francesco Colaleo, Andrea Costanzo Martini tra gli altri, Nicola Marratodi ad esempio. Poi abbiamo Bernardo Casertano, che invece è un attore di Roma che quest'anno ha fatto una residenza e proporrà l'esito di questa residenza e poi una performance invece a parte dalla residenza. Poi abbiamo Marco Martinelli del Teatro delle Albe, abbiamo una produzione di Teatro Acropolis che è Morte di Zarathustra, che ripresentiamo quest'anno, insomma, quindi diverse esperienze tra di loro, anche molto molto diverse, ecco. Però tutte unite da questo filo rosso che è un po' la traccia della ricerca di Teatro Acropolis, ovvero questo rapporto tra il corpo, l'azione fisica e invece proprio la parola e la frequentazione della scena e della performance. Allora, ci dai tutti i riferimenti per saperne di più sul web? Allora, sul sito di Teatro Acropolis, www.teatroacropolis.com, ci sono tutti i riferimenti. Ovviamente poi su tutti i social è possibile seguire giornalmente le attività che sono già partite con delle residenze, in realtà poi il festival si apre con uno spettacolo domani sera e andrà avanti con il convegno su Ivrea a maggio, ai primi giorni di maggio. Visto che si tratta di un mese di iniziative, e più o meno come è suddiviso, quali sono le giornate e come sono organizzate le giornate? Ma le giornate, allora, noi abbiamo, questo festival, tra le caratteristiche c'è quello di, fino ad oggi almeno, abbiamo tenuto dei tempi piuttosto ampi. Quindi abbiamo ad esempio domani sera questa performance di Bernardo Casertano, poi abbiamo un momento, diciamo, di frequentazione, di apertura del teatro con residenze, incontri col pubblico, fino ad arrivare poi all'evento successivo. Quindi l'idea di testimonianza e ricercazione è quella di riflettere e concedere molto al rapporto tra chi il teatro lo fa e chi il teatro in qualche modo lo frequenta. Benissimo, allora un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille a tutti voi, buona giornata, grazie.